piano. Di Enrico Ruggeri. Avete mai rischiato la vostra vita per salvare un'altra persona? Vi siete mai trovati a affrontare una situazione di pericolo senza avere il tempo di calcolare le conseguenze del vostro gesto? Beh, a volte nella vita bisogna compiere delle scelte e ci sono scelte che non possono essere dettate dalla razionalità, ma solo dall'istinto, che magari ti porta a decidere di compiere determinate azioni sotto gli effetti dell'adrenalina, riuscire a cancellare la paura, magari buttarsi tra le onde del mare o sfidare il fuoco per soccorrere una persona intrappolata in un incendio. Non sappiamo come reagiremmo di fronte a certe situazioni. Ti può capitare di non pensare alle conseguenze e ci sono casi di soccorritori che corrono pericoli o addirittura devono soccombere perché stanno cercando di salvare un altro. La storia di oggi contiene proprio tutti questi ingredienti. È la storia di un eroe per caso che ha provato a modo suo a fare la differenza. Oggi raccontiamo la storia di Pierlucio Tinazzi e lo facciamo anche grazie a un ascoltatore, Riccardo Albonetti, che è con noi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Come mai ci hai chiesto di raccontare questa storia un po' dimenticata ma meravigliosa? Nasce tutto un po' per caso, perché recentemente ho fatto il corso antincendio ad alto rischio e l'ingegnere che faceva questo corso ci aveva raccontato che la farina era un possibile combustibile molto pericoloso e ci aveva raccontato che l'incidente del Monte Bianco era scaturito proprio da un camion che si era incendiato e che trasportava, se non sbaglio, farina e margherina. Ah, certo. Praticamente la cosa mi ha molto incuriosito e io sinceramente lo ricordavo questo episodio molto vagamente. Rileggendo la figura di Pierlucio, ho detto Spadino, sinceramente un po' commosso. Certo, certo. Adesso scopriremo tutto. Riccardo, ti ringraziamo, buona puntata. Grazie, grazie mille. La Valle d'Aosta è una regione bellissima, è una meta turistica per sciatori accaniti durante i mesi invernali, è un paradiso tra storia, castelli, bellezze naturali. Però la Valle d'Aosta non è solo meta di turisti, la gente nata tra quelle montagne conosce il valore, i pregi delle rocce, dei crepacci, delle insidie che si possono nascondere, delle trappole invisibili pronte a scatenarsi come le valanghe. Insomma, il freddo e il ghiaccio sono dei nemici difficili da prevedere. La gente del posto però sa anche rispettarle quelle montagne, sa qual è il limite da non superare per non correre rischi. E una di queste persone è il nostro protagonista di oggi, Pierlucio Tinazzi. Lui è nato tra quelle montagne nel dicembre del 62 a Courmayeur, proprio ai piedi della vetta più alta del Monte Bianco, una montagna che viene venerata come un dio, una montagna che chiede rispetto, che si è lasciata violare dall'uomo, che adesso ha dovuto per forza di cose aggirarla, superarla, anzi scavare nel suo interno. Ha scavato un tunnel di 12 chilometri, tunnel indispensabile per unire l'Italia al resto dell'Europa. A Ginevra, nella sala Alabama, sotto la presidenza dello svizzero Sauser Hall, conferenza per il tunnel del Monte Bianco. Delegazioni dei tre paesi interessati, Svizzera, Francia, Italia, rappresentata dall'ambasciatore Talamo e da altri 5 esperti. Il traforo del maggior massiccio alpino risolve nel modo più lineare la dibattuta questione della via del settimo meridiano, congiungendo Roma attraverso Torino con la Valle del Reno, la Svizzera, Parigi, il Benelux. Eh sì, è una svolta per i collegamenti in Europa, d'altra parte, insomma, non voglio entrare in argomenti sui quali non sono preparato, però è evidente, insomma, che il progresso chiede anche magari qualche albero sacrificato o qualche montagna con un tunnel sotto, e arrivare presto ormai, ahimè o per fortuna, è l'esigenza degli uomini di oggi. Ma torniamo a lui, a Pierluccio Tinazzi, che è una persona tranquilla, riservata, una riservatezza che lui deve alla sua infanzia, un'infanzia non certo felice, il padre che muore poco più che quarantenne in un incidente stradale e la madre che viene colpita da un ictus e che è costretta su una sedia a rotelle. Insomma, Tinazzi deve subito rimboccarsi le maniche, si prende cura della madre, appena finita la scuola comincia a lavorare, fa l'operaio a Morgé e poi conosce una ragazza pugliese, si innamora, i due si sposano, vanno a vivere a Pressandidie. È una vita normale di persone normali, con le gioie e i dolori che fanno parte della vita di tutti, una vita tutto sommato in questo caso anche piuttosto anonima, diciamo. E per vivere in mezzo alle montagne della Val d'Aosta ci vuole un certo spirito di adattamento. Per alcuni adattarsi può essere una cosa difficile, soprattutto se si viene dal sud, se si è abituati al sole, al mare, agli orizzonti liberi. La moglie di Pierluccio Tinazzi non riesce proprio ad adattarsi a queste montagne, a questo cambio così radicale. Insomma, il matrimonio a un certo punto finisce. Lui prova a riconquistare a tutti i costi la donna della sua vita, non ci riesce, rimane solo. La coppia non ha figli e lui torna a Morgé, si chiude in se stesso, diventa introverso, è gentile con tutti, però è silenzioso e riservato, è una figura quasi invisibile che nessuno nota. La sua unica passione era la moto. Amava andare in giro per le strade di montagna a scoprire luoghi segreti, lontani dagli sguardi dei turisti. Si era rassegnato a stare da solo, lo aveva accettato, anche se avrebbe voluto che le cose andassero diversamente. Daniela è la sorella di Pierluccio, queste sono le poche parole che ha rilasciato a un giornalista di una rivista americana, perché anche lei ha un carattere schivo, riservato. Stiamo parlando di gente non abituata a stare al centro dell'attenzione, gente che non vuole farsi notare, che vuole una vita tranquilla. A un certo punto Pierluccio fu assunto dalla società che controlla il traforo del Monte Bianco. Gli venne offerto un lavoro nella sala di controllo, ma lui non è mai stato un tipo da scrivania. Preferiva stare all'aria aperta. E così Tinazzi comincia a lavorare per la società autostradale che controlla il traforo del Monte Bianco. Lui si occupa della manutenzione. Invece di stare al caldo della sala controllo, vuole lavorare sul campo, a bordo della moto di servizio, con cui ogni giorno deve attraversare il tunnel e verificare che tutto sia in ordine. Il falco e il gabbiano. Pierluccio Tinazzi, una persona schiva, a modo, che va d'accordo con tutti gli altri addetti alla sicurezza del traforo. Lui è uno degli 8 motard, fanno la spola tra il lato italiano e quello francese per controllare che la carreggiata sia libera, che sia pulita, che non ci siano vetture in difficoltà all'interno del tunnel. È un lavoro che porta Pierluccio da una parte all'altra della galleria più volte al giorno. Nelle pause tra un turno e l'altro va a mangiare nell'autogrill vicino al confine, ordina qualcosa con il suo vocione cupola, con la cadenza, con la R tipica dei valdostani, la cui parlata è influenzata insomma dalla vicina Francia. E questo vocione che fa contrasto col suo fisico esile e magro, e i suoi colleghi lo hanno soprannominato Spadino. La segreteria telefonica di Spadino recita: buongiorno, qui a casa Pierluccio, in questo momento siamo assenti. È una segreteria che lui mette in funzione da quando il matrimonio è naufragato. Poi arriva una nuova ragazza, si chiama Elisabetta, gliela presentata la sua migliore amica che si chiama Eva. È un colpo di fulmine, i due stanno progettando di andare a vivere assieme per ripartire di nuovo. In fondo lui ha solo 37 anni, vuole costruire un futuro, ce lo ricorda anche uno dei suoi pochi amici, Mauro. Era l'inizio del 1999. Le cose sembravano finalmente andare per il meglio. Gli ultimi 2 anni non erano stati un granché per lui, si sentiva solo. E aver conosciuto una ragazza così gli aveva dato di nuovo fiducia in se stesso. La mattina del 24 marzo 1999 Spadino è al lavoro come sempre, una giornata tersa, è una giornata di inizio di primavera con la natura che riaffiora da sotto la neve, che si risveglia dal torpore invernale. Lui va al lavoro in moto come sempre, sale sulla moto di servizio, inizia a perlustrare il tunnel dall'Italia fino all'uscita opposta sul piazzale francese. 11 chilometri e 600 metri in un buco scavato nella roccia coperto da 3000 metri di granito, un tunnel che si percorre in un quarto d'ora, che permette alle auto e soprattutto ai camion di evitare un percorso di ore, 7 ore su e giù per i valichi alpini. 7 ore era il tempo che era necessario per arrivare dall'altra parte prima del tunnel. Naturalmente questo tunnel è regolamentato da un codice stradale molto rigido, c'è un limite di velocità di 60 chilometri, bisogna rispettare la distanza di sicurezza, ci sono 40 telecamere che sorvegliano tutto il tragitto, ci sono due sale di controllo, una italiana e una francese. Intorno alle 10:15 Spadino, Pierluccio Tinazzi, si trova all'imbocco francese del tunnel e sta aspettando di percorrere il tragitto a ritroso, come fa diverse volte durante il suo turno di lavoro. Alle 10:46 entra nel tunnel un camion guidato da Gilbert De Grave, un autista belga che trasporta un carico di burro e margarina. Lui ha già percorso questo tunnel centinaia di volte facendo la spola tra l'Italia e il resto dell'Europa. È una bella giornata di sole, il viaggio è stato tranquillo, il tir è diretto in Italia. Viene inquadrato all'entrata francese del traforo dalla prima delle telecamere, una ogni 300 metri, che controllano il traffico nel tunnel. Nessuno può pensare a una qualsiasi forma di pericolo imminente, ma qualcosa di terribile sta per accadere. Pochi minuti dopo l'entrata nel tunnel, da un lato del camion comincia a uscire una sottile striscia di fumo bianco. Ed è grave, il camionista non si accorge, prosegue la sua strada. Dopo qualche chilometro, quando il camion è a metà del percorso, gli altri tir, quelli che arrivano dall'Italia e che lo incrociano, cominciano a attirare l'attenzione dell'autista lampeggiando con i fari negli specchietti. De Graaf si accorge che sta uscendo del fumo dal retro della motrice, però non si ferma. Guardai negli specchietti, vidi del fumo sul lato destro, ma non era molto e decisi di proseguire. Pensai che fosse meglio portare fuori dal tunnel il camion e fermarsi a controllare sul piazzale italiano all'uscita. Ormai avevo passato la metà del tunnel e quindi mi conveniva proseguire. Eh sì, De Grave fa quello che avrebbero fatto in molti. Io avrei fatto così: e vedi del fumo nel tuo camion e sei oltre la metà e dici vado avanti, quando sono fuori poi risolvo il problema. E i sensori non rilevano nulla perché la quantità non è sufficiente a far scattare gli allarmi. E poi i sensori dal lato italiano sono disattivati perché il giorno prima c'era stato un falso allarme, quindi il sistema doveva essere ricontrollato. Alle 10:51 il fumo comincia a essere ben visibile. Alla fine i sensori francesi segnalano il problema, ma nella centrale francese non viene dato peso a quell'allarme che segnala fumo nel tunnel. Si pensa a un altro malfunzionamento, i pompieri non vengono allertati. De Grave comincia a capire che mancano ancora 5 chilometri all'uscita e sono una distanza troppo lunga per continuare, decide di fermarsi per spegnere il principio di incendio con l'estintore che ha nell'abitacolo. È facile dire avrei fatto così o avrei fatto cos'ha, mi sarei fermato o avrei continuato. Quando ascolto le frasi dette dai miei colleghi camionisti che mi hanno criticato dicendo io non mi sarei fermato, rispondo che in quei momenti non c'è stato il tempo di ragionare. Bisogna trovarsi in una situazione per capire la difficoltà di prendere una decisione. È tutta un'altra cosa. E io ho preso quella che per me era la migliore. Eh sì, decisioni da prendere al volo, stiamo parlando veramente di pochi minuti. Il tir si ferma nel tunnel, il tunnel è a due corsie, una per ogni senso di marcia, quindi le auto e i camion dietro si devono fermare. De Grave scende dal camion, va a vedere da dove esce il fumo, si avvicina alla portiera per prendere l'estintore, ma proprio in quel momento c'è una fiammata, un'esplosione che scatena un incendio che avvolge immediatamente l'abitacolo del camion e lui non può fare nulla. Si allontana verso il lato italiano, si lascia alle spalle il tir. Le telecamere osservano la scena, scattano gli allarmi sul piazzale francese. Il primo a salire a bordo della sua moto e infilarsi a tutta velocità dentro al tunnel è lui, è Spadino. Lui però non ha idea di quello che lo aspetta nel cuore della montagna. Il falco del Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Pierluccio Tinazzi, detto Spadina, uno degli addetti alla manutenzione e controllo dentro al traforo del Monte Bianco. Lui è uno di quelli che vengono chiamati motardi, motociclisti che attraversano il tunnel per controllare la carreggiata, per aiutare le persone che hanno qualche problema meccanico all'interno del traforo. Lui è un ragazzo tranquillo, i suoi colleghi lo hanno soprannominato Spadino per via di quel suo fisico esile, e la mattina del 24 marzo 1999 alle 10.53 si sta materializzando il peggior incubo di tutti quelli che nella loro vita sono passati all'interno di un tunnel. Un camionista belga, Gilbert De Grave, ferma il suo tir a 5 km dall'uscita italiana del tunnel per spegnere un principio di incendio. Una fiammata e un'esplosione avvolgono nelle fiamme l'abitacolo del tir. De Grave non può far altro che correre a piedi verso l'uscita italiana. Dietro al suo mezzo però si è formata una colonna di una ventina di veicoli, tra auto e camion, 38 persone. Appena scoppia l'incendio, un automobilista si avvicina al telefono numero 22, uno dei tanti telefoni di soccorso, e dall'allarme le entrate vengono bloccate. Spadino ha preso la moto e dal lato francese è entrato a tutta velocità per raggiungere il luogo dell'incidente, a 6 km dall'entrata. E lui sta vivendo il suo colpo d'ala, non ha esitato un istante a entrare in quel buco scavato nella montagna, non immagina cosa lo stia aspettando. Intanto gli operatori della sala di controllo italiana, vedendo alcune auto fare manovra per invertire la marcia e uscire dal tunnel, decidono di immettere aria fresca per evitare che il fumo troppo denso possa intossicare qualcuno. Però è un errore, perché se si vuole spegnere un incendio bisogna togliere ossigeno e non aggiungerne altro. L'aria pompata dal versante italiano aumenta il vigore dell'incendio del camion. Il burro e la margarina del carico diventano un combustibile che rende le fiamme ancora più alte. Il fumo invade il lato francese del tunnel, arrivando fino all'uscita a 6 km di distanza. Abbiamo fatto una lunga retromarcia, poi in una piazzola siamo riusciti a fare manovra e a tornare indietro. Non si vedeva nulla per il fumo, ma poi è arrivato un addetto alla sicurezza e ci ha dato le indicazioni per allontanarci prima possibile. Questo è il ricordo di Nicolas Borghi, che è uno dei tanti appassionati di sci che sta rientrando in Italia dopo aver trascorso qualche giorno a Chamonix. Spadino intanto con la sua moto gli è passato accanto, cerca di coordinare la fuga dal tunnel. Sono passati solo pochi minuti dall'inizio dell'incendio, ma la situazione è già terribile. Dietro al tir in fiamme le auto hanno il motore ingolfato, i camion non possono muoversi perché non c'è spazio di manovra. Parliamo di un tunnel a un'unica carreggiata con due sensi di marcia. Le persone rimangono all'interno delle auto per non respirare il fumo che le ha avvolte. C'è poco tempo per loro per rendersi conto di quello che sta accadendo. Sono passati circa 40 minuti da quando è scoppiato l'incendio del tir belga all'interno del traforo del Monte Bianco. Il fumo ha invaso tutto il versante francese del tunnel e i pompieri sono entrati da entrambi i lati, hanno portato fuori le persone che con le loro auto erano rimaste bloccate all'interno. Ma il fumo nero che avvolge il punto dell'incendio oscura le telecamere. Non si capisce se sono rimaste bloccate all'interno della galleria delle persone e, se sì, quante sono. Alle 11.45 suona il telefono d'emergenza nella sala operativa francese. Qualcuno sta chiamando da uno dei rifugi. È Pierluccio Tinazzi, è lui, è Spadino, che ha raccolto un camionista che ha perso conoscenza. Non riuscendo a caricarlo sulla sua moto, lo ha trascinato nel rifugio più vicino. Sono nel rifugio, con me c'è uno che sta male. Queste sono le ultime parole che si sentono al telefono. Poi, a causa del calore e del fuoco, le comunicazioni si interrompono. Gli stessi pompiere che avanzano a piedi, lentamente seguendo con la mano il bordo della galleria perché non ci sono punti di riferimento, la visibilità è nulla. Gli stessi pompieri riescono ad arrivare fino a un certo punto, poi il calore comincia a essere insopportabile. L'incendio durerà per oltre 50 ore, più di due giorni, durante i quali la temperatura all'interno del tunnel supererà i 1000 gradi. Il fumo che esce dalla galleria contiene cianuro, quindi se qualcuno è rimasto lì dentro non può aver avuto scampo. Quando i pompieri riescono finalmente a raggiungere il luogo dell'incidente, trovano l'inferno ad attenderli. Carcasse di auto di cui è rimasta solo la lamiera, asfalto fuso, deformato, la volta della galleria crollata in alcuni punti per il calore. E ci sono quelle auto e quei camion incolonnati dietro al tir belga. All'interno vengono trovati i resti di 37 persone consumate dal fuoco, irriconoscibili, alcune per terra, sulla strada, altre sedute in macchina. E poi c'è il rifugio numero 20, un rifugio che è stato studiato per resistere un paio d'ore al fuoco. All'interno vengono trovati i resti di due corpi e uno di loro è Pierluccio Tinazzi. Spadino non ce l'ha fatta. Il traforo del Monte Bianco rimarrà chiuso per 3 anni, durante i quali verranno fatti importanti lavori di ammodernamento, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Viene creata una centrale operativa all'interno della quale staziona permanentemente un camion con una squadra di pompieri. I rifugi diventano pressurizzati, vengono costruite nuove vie di fuga per evitare che possa ripetersi la tragedia del 1999. Alla fine i morti saranno 38 automobilisti e un solo addetto alla manutenzione, Pierluccio Tinazzi. Quello che resta della sua moto è stato trovato a pochi metri dal rifugio della morte, completamente fuso con l'asfalto. La storia di Pierluccio, di Spadino, viene raccontata dai sopravvissuti. Qui accade un fatto strano, c'è un passaparola che forse comincia anche a modificare la storia, a arricchirla di particolari, di dettagli, forse cose non vere ma che assumono l'apparenza della realtà. Si dice che Spadino abbia rincorso il camion vedendolo entrare nel tunnel già in fiamme, che abbia fatto la spola avanti e indietro con la sua moto salvando, chi dice, 4, 5, 9, 20 persone, che poi sia entrato l'ultima volta scegliendo di non abbandonare un ferito. Questa purtroppo è l'unica verità certa, il resto è terribile, meravigliosa leggenda. Perché sei qui oggi? Io sono venuto oggi per commemorare la leggenda di Spadino, che è un motociclista italiano che è rientrato 4-5 volte in questa galleria per salvare la gente e l'ultima volta è rimasto dentro. Quel ragazzo ha salvato la vita di almeno 12 persone. Lui ha lasciato la sua vita per salvare 8 persone. Ha salvato la vita di quante persone? 15, mi sembra. Tu lo sai quanto persone ha salvato Spadino? Mi sembra 10. Ho sentito dire che è morto in questa galleria dopo aver recuperato 9 persone. Ha preso la sua moto per fare uscire la gente che era dentro e dopo 7 viaggi è morto in questa galleria con la gente che voleva salvare. Ho sentito dire che ha salvato almeno 20 persone. Boh, non lo so. Io ho sentito dire una decina, mi pare, Una quindicina, credo. Mi pare molto importante che i bambini conoscano questa bella storia umana. Queste interviste sono state fatte da un giornalista francese durante uno dei tanti memorial Spadino. Eh sì, perché ogni anno a Morgé, dove Spadino è sepolto, centinaia di motociclisti italiani e francesi si trovano in questo moto raduno in cui viene commemorata quella che ormai è una leggenda. È un'occasione per ricordare un tragico avvenimento, terribile, per evitare che accada di nuovo, e poi un modo, un evento per parlare di sicurezza stradale. Ormai sono passati tanti anni e la gente non sa più veramente come siano andate le cose quel giorno, e forse non importa neanche essere troppo precisi. La leggenda di Spadino continua a essere raccontata anno dopo anno. Pierluccio è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile per aver tentato di salvare l'automobilista francese con cui è stato trovato nel rifugio. Le inchieste, i processi hanno fatto giustizia, ci sono state condanne, sono state riconosciute delle responsabilità per il camionista belga, una condanna a 4 mesi con la condizionale. Certo, una condanna a vita, e per lui sapere di essere stato la causa, anche se involontaria, della morte di 39 persone. Dal processo È emerso che non ci sono prove che Spadino abbia salvato qualcuno, ma non importa. Il suo grande colpo d'ala è stato quello di andare incontro al pericolo senza pensare alle conseguenze, cercando di aiutare chi aveva bisogno. E il colpo d'ala può essere meraviglioso anche solo se è fatto con le intenzioni giuste, e poi una tragica fine che ha dato il via anche forse a delle leggende che sono andate a superare ciò che realmente ha fatto Pierluccio Tinazzi, ma non ci importa, questa è una terribile e meravigliosa storia di coraggio. Se volete che io racconti qualcosa di particolare che vi interessa, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it o venite a cercarmi sui miei social, sui nostri social, insomma, se volete sapete che mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.